La campagna elettorale naturalmente è stata caratterizzata da un fatto, diciamo così, inaudito, cioè che i due principali leader dei partiti indipendentisti sono uno in carcere e uno all'estero. Tra l'altro la persona che sta all'estero, Carles Puigdemont, è il presidente del governo catalano destituito dal governo di Madrid. Quindi questo elemento, che è un elemento assolutamente, come dire, nuovo e una novità negativa nella storia della politica spagnola, certamente ha caratterizzato tutta la campagna elettorale. Dopodiché, naturalmente, il secondo elemento che ha caratterizzato questa campagna sono le circostanze che hanno portato a questa situazione, e cioè l'applicazione per la prima volta nella storia spagnola dell'articolo 155 della Costituzione, che ha fatto sì che il governo, secondo alcuni anche in maniera illegittima, abbia, il presidente del governo spagnolo abbia assunto la facoltà di indire elezioni catalane, una facoltà che invece spetta solo al presidente del governo catalano. Per cui questi elementi certamente sono stati i punti di partenza, e rispetto a questi elementi tutti i partiti si sono dovuti in qualche modo posizionare. I principali partiti che competono in questa competizione elettorale sono 7. Ci sono 3 partiti indipendentisti, che sono il partito che è intorno al presidente uscente Carles Puigdemont, il partito di Esquerra Repubblicana che è intorno a Oriol Junqueras, che è una delle persone che è rimasta in carcere, e poi il partito della CUP, che sono, diciamo, i movimentisti di sinistra che comunque appoggiavano il governo uscente. Ci sono i 3 partiti cosiddetti costituzionalisti, che sono il Partito Popolare, che qui in Catalogna è un partito molto minoritario, il Partito Socialista Catalano e Ciutadanos, che assieme a Esquerra Republicana sono i 2 partiti che probabilmente prenderanno più voti. Quindi, diciamo, la competizione per il primo posto è tra questi 2 partiti, fra Ciutadanos e Esquerra. E dopodiché c'è il 7° partito, che è il partito, diciamo così, che ha deciso e ha fatto della sua politica, ha fatto del centro della sua politica proprio questo fatto, ha deciso di essere trasversale, non si vuole né iscrivere al partito degli indipendentisti né al partito degli anti-indipendentisti, che è il partito di Catalunya in Comú, che è il partito, diciamo, per capirci, in cui milita anche Ada Colau, che ha messo insieme tutta una serie di sensibilità, da Podemos ai Verdi, a tutta una serie di persone che esprimono tutta questa zona politica di sinistra. I 3 partiti ovviamente indipendentisti promettono di continuare nel loro cammino verso l'indipendenza nel caso dovessero raggiungere la maggioranza dei voti, forse se anche la maggioranza dei seggi, come in questo caso qui, ma non quella dei voti, lo farebbero lo stesso, sembra. Lo stesso dicono i costituzionalisti, che dicono, soprattutto il PP e Ciutadanos, dicono che bisogna cambiare registro, smettere di parlare del processo, e invece Catalunya in Comú, che probabilmente avrà la chiave un po' del prossimo governo, mette al centro del suo discorso politico la questione sociale e lascia la questione identitaria in un secondo piano, criticando l'applicazione dell'articolo 155, ma allo stesso tempo criticando le azioni unilaterali portate avanti dal precedente governo catalano. Allora, stando così le cose, è molto probabile che la situazione possa essere bloccata, perché sembra che più o meno il blocco degli indipendentisti e il blocco degli anti-indipendentisti sono più o meno tutti e due allo stesso livello, intorno al 40-45% dei voti, e invece Catalunya in Comú, che non dovrebbe prendere moltissimi voti, anche se alle ultime elezioni politiche era stato il partito più votato, dovrebbe essere insomma intorno al 10-12%. Questi più o meno sono i numeri. Che cosa succederà? Questo veramente non lo sa nessuno. Come ti dico, la possibilità che ci sia un blocco è piuttosto elevata. Alcuni sperano, pensano, ipotizzano che dopo probabilmente mesi di negoziati infruttiferi probabilmente si potrebbero rompere i blocchi, nel senso che alcuni immaginano un possibile governo socialista Catalunya in Comú e forse con l'appoggio di Esquerra Repubblicana, che diciamo sarebbe la componente, diciamo così, di sinistra più o meno socialdemocratica dell'ambito indipendentista, e quindi in qualche modo un governo trasversale. Ora, questa possibilità al momento sembra abbastanza remota, però questo potrebbe essere l'unico modo in cui si uscirebbe da un'eventuale situazione di stallo. Tutto questo naturalmente sempre quando nessuno dei 2 blocchi, come ti ripeto, sembra, cioè il blocco dei 3 partiti costituzionalisti o del blocco dei 3 partiti indipendentisti, dovesse raggiungere la maggioranza dei voti o dei seggi. Quindi, diciamo, diciamo che insomma, quello che è successo non ha tirato una volata per gli indipendentisti come in un certo modo si poteva immaginare. Questo è un tema di grande dibattito. Se tu oggi lo discuti qui in Catalogna con gli uni o con gli altri avrai delle risposte diverse, nel senso che gli indipendentisti sono convinti di questo che tu stai dicendo. Io personalmente credo invece che non so se sia diminuito il numero di persone che vorrebbero l'indipendenza, l'autonomia statale della Catalogna, però non credo che siano aumentati, e appunto io sono fra quelli che pensa che è il sospetto che invece semmai sono aumentati gli altri, nel senso che tutti prevedono, e mi sembra una previsione abbastanza ragionevole nonostante si voterà per la prima volta nella storia spagnola in un giorno feriale, però io credo che ci saranno più votanti del solito, che si sono mobilizzati molti votanti che non hanno votato finora, e questi votanti con tutta probabilità sono votanti, diciamo così, anti-indipendentisti. Penso che probabilmente i due blocchi saranno abbastanza equilibrati, ma semmai se fra gli indipendentisti e non indipendentisti sarei più propenso a immaginare che forse saranno un po' di più i non indipendentisti, perché anche perché un'osservazione, diciamo così, aritmetica molto semplice, osservando i risultati degli ultimi anni si nota che dal referendum del 9 novembre 2014 alle elezioni del settembre del 2015 a questo referendum dell'1 ottobre, il numero di persone che ha votato o per l'indipendenza dei due referendum o per partiti esplicitamente indipendentisti delle ultime elezioni politiche è rimasto sempre uguale. Sono più o meno 2 milioni di persone, 2 milioni e 2. Non ce ne sono di più né di meno. Quindi diciamo è un blocco molto forte, molto importante politicamente, che è stolto e irresponsabile ignorare, come sta facendo il governo spagnolo sistematicamente, però non è né la maggioranza e né ci si avvicina a esserla.